Eh sì, in effetti fai una cosa, sposta leggermente il microfono verso di lui. Eccoci qua. Poi abbiamo, no, non troppo, lascialo pure, ecco, tipo così. E poi abbiamo Lucia Lamberti. Ciao, buonasera a te. Che mi dici, perché non so se avevate sentito, ma io sto cercando una co-conduttrice temporanea. Ho deciso di fare come faceva Fedra quando non c'ero io, ovvero ogni mese cambiare co-conduttrice. Io e Maschi non so se avete capito, voi non due li non, li voglio, esatto. E poi abbiamo Sandro Malossini, scusami tanto, ricoglionito, che sì. Buonasera a te, che ha curato la mostra di Leonardo. Certo. Cominciamo con te, che cosa ci racconti di questa fantastica mostra? Ma innanzitutto è una mostra che ci siamo inventati in una settimana. Allora racconti pure questo è molto divertente. In quattro giorni mi sottolinea Leonardo, perché cioè io collaboro con la regione ormai da anni e abbiamo una programmazione annuale. E niente, è capitato che per un problema, diciamo non per colpa nostra, ma per altri motivi inerenti alla politica, si è liberato uno spazio per una quindicina, 20 giorni. Uno spazio espositivo che doveva essere destinato a un'altra esposizione, e mi è stato chiesto di inventarmi una mostra in tempi brevissimi. Ho pensato, questo è successo un lunedì mattina verso le 11 e alle 12:30 era già tutto allestito, praticamente deciso già tutto, avevo parlato con Leo, Leonardo è un artista che seguo da anni, che conosco fin dagli anni 80, negli ultimi tempi avevo visto i suoi lavori, sapevo che c'erano dei lavori a disposizione in studio da lui per imbastire e fare una mostra, e così è stato. Nel giro di una settimana abbiamo fatto tutto, perché siamo riusciti anche a uscire col catalogo, tra l'altro un catalogo direi abbastanza interessante, perché c'è tutta una parte di antologia critica che accompagna le opere esposte in mostra, per cui completa un pochettino un percorso che dagli anni Ottanta lo porta fino a questi ultimi lavori dedicati al paesaggio che sono stati realizzati nel 2019. E dunque, no, infatti stavo guardando il primo pezzo, Sassi, è del 1980 proprio. Certo, è la prima mostra che Leonardo Santoli ha fatto. Sì, allo studio B, che era lo studio di una fotografa, Rosangela Betti. Certo. Ed aveva aperto lo studio fotografico anche a una serie di esposizioni a Rimini, e mi propose, io avevo appena finito l'Accademia di Belle Arti, mi propose una mostra in cui avevo questa parte di Sassi, in cui c'era tutto un percorso poetico con delle scritte, dei simboli, e una specie di installazione con un bastone a parete con una serie di lumache che salivano sopra questo bastone. È Studio Cloud. Una roba super concettuale. Che... Beh, io in Accademia facevo praticamente... sì, i primi lavori erano, per esempio, lavoravo sull'angoparte, lavoravo sulla sineddoche, sulla metonimia, quindi il particolare nel tutto, il tutto nel particolare. Scusa l'ignoranza, ma l'angoparte mi manca. No, l'angoparte era su un pensiero che avevo io, era un titolo che avevo dato a un lavoro in cui avevo ricostruito una serie di libri e una serie di settimanali come l'Espresso, Panorama, in cui avevo ricreato le pagine in plastica trasparente e avevo ricostruito il giornale solo attraverso l'angolo in basso che serve per girare la pagina, no? E quindi c'era il libro o la rivista con il particolare reale del settimanale, però tutta la pagina era trasparente, e quindi lavoravo, il discorso era l'angoparte per il discorso dell'angolo, in cui c'era tutto il discorso angolo, angoscia e così. Ho capito, interessante sta cosa. Ma e invece Lucia perché ce la siamo portata dietro? Bello. Così. Un motivo di fondo c'è, perché Come, come voi sapete, cioè io organizzo da un po' di anni queste mostre in regione, per cui partendo dei festini privati, ecco, però c'è una novità, una cosa che anticipo adesso, che è quella che terremo una mostra personale di Lucia in regione per il periodo di Arte Fiera. Hai capito? Wow. Per Arte Fiera ci saranno due mostre in regione. Uno scoop abbiamo. Uno quella di Lorenzo Puglisi nella parte superiore dell'Assemblea Legislativa in piano Mezzato, e nella parte di sotto, che in questo momento ospita la mostra di Leonardo Santoli, ci sarà una mostra invece di Lucia. Okay. Io ne sono molto contento. Anche questa è una mostra comunque che è nata in tempi brevissimi, perché ne abbiamo parlato qualche giorno fa, tipo ieri, e mi ha detto sì, va bene, adesso abbiamo un attimino di tempo in più perché arriviamo a gennaio, però nel frattempo io ho altre mostre che precederanno quelle in regione, per cui arriveremo come sempre all'ultimo a fare il catalogo, a fare comunicati stampa. Comunque anticipiamo che per Arte Fiera ci sarà una sua mostra. Ho capito, che fantastico. Beh, poi con Lucia avremo modo di approfondire, visto che hai appena accettato di essere la mia co-conduttrice per le prossime quattro settimane. Vedi, succede tutto così. Mi fanno delle domande, io rispondo di sì, sì. E succedono le cose. Esatto, è bellissimo. Molto bene, ottimo, fantastico. Allora direi che a questo punto possiamo ascoltarci un pezzo che adesso non vi dico da dove arriva, però è fantastico e adesso ve lo sentite così. Abbastanza coccico è lui. With my chin up high, fuck 'em all, fuck 'em back. You think I'm ugly, I don't care. You think I'm dumb, I don't care. You think I'm scum, I don't care. Bitch, I make my money. Party till I die. With my chin up high, fuck 'em all, fuck 'em back. Twerk like it's my last day on this earth. Let the dollar make a work, work. People always hate. The more they hate, the more I work. Everybody say they're lit, but all they do is showing shit. In my street, like the slaves, bitches always kiss my feet. Stay out of my way, you bitch, I can deal with your fake ass meat. They thought that I had stopped, it was over, I had dropped. Bitch, I had my plans out here, I'm only just at my start. You will have to kill me to make me fucking stop. I was already dead again, you can hurt me, only God. Party till I die, with my chin up high. Fuck them all, fuck them back. Twerk like it's my last day on this earth. Let the dollar make a work, work. Party till I die. With my chin up high. Fuck 'em all, fuck 'em back. Twerk like it's my last day on this earth. Let the dollar make a work, work. I ain't scared of death, but I fear damn as dead as breath. All the drugs in your veins, I am blessed with the smartest brain. I remember your love when I was at my worst. Let me tell you, piece of scum, I'm supported from above. Your man in my DMs while you're talking shit behind my back. All the shit you said made you look like a little bitch flathead. Your opinion, bitch, fuck that. What do I think of you? How I love in your face, bitch, if you only knew. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Party till I die, with my chin up high. Fuck 'em all, fuck 'em back. Twerk like it's my last day on this earth. Let the dollar make a work, work. Shake that money maker in my face. It's a favor, ooh, I love your misbehavior. Party till I die, with my chin up high. Fuck 'em all, fuck 'em back. Twerk like it's my last day on this earth. Let the dollar make a work, work. Shake that money maker in my face. It's a favor, ooh, I love your misbehavior. Party till I die, with my chin up high. Che dice adesso no, io non, anzi, certo. Stavo pensando di dire marron, va marron, bene, marron. No, dicevo, questo pezzo è così, è un po' così, cioè ci stava, no? Io avevo bisogno di sentire un po' di insulti, allora ho messo questo China Pie di Amy Bibabi, si chiama. E dunque la mostra di Leonardo quando è cominciata? È cominciata il 23 15. Ottobre, no? Il 15. Hai ragione. Chiude il 2 novembre, ecco. Sabato mattina abbiamo un'apertura straordinaria. Sì, mattina ci sarà con due mostre. Un'apertura straordinaria dalle 10 alle 12. cosa che non finissage di Andrea Raccagni e di Leonardo Santoli, esatto. Ce l'avevo qua nel mio coso delle menzioni. Sta suonando il campanello, però non credo che sia per me, per cui io non apro. No, vai tranquillo, c'è gente fuori. Comunque, se per caso avete bisogno che vi apriamo il cancello, suonate nuovamente. No, invece, se qualcuno di voi davvero vuole venire a fare un mese di co-conduzione a Coxo Spaziale, scrivetemi al 333 180 94 94 adesso o mai più, perché io naturalmente nel frattempo mi sto organizzando e dalla radio accetto anche dei maschi, mentre invece all'interno dello studio voglio una co-conduttrice, per cui perché lo so che Leonardo altrimenti sarebbe si metterebbe qua, è già pronto a rimanere stabile, qua fino a lunedì prossimo. E, anzi, ringraziamo Mario Vox che ci ha fatto sentire un sacco di musica anche prima. E cosa no, più che altro, no, alla fine non mi hai portato la settimana scorsa che abbiamo parlato della tua mostra con anche il tuo amico poeta. Pensavo che me lo portassi, invece non me l'hai portato. Il poeta Ezio Alessio Ginsini, esatto. Un poeta con cui collaboro da tanto tempo, e quindi ti ricordi, abbiamo già fatto, no, una trasmissione e la presentazione dei libri. Certo. E lui sta a San Piero a Sieve, che e purtroppo questa in che mondo Scarperia, è? Scarperia San Piero a Sieve, e dove c'è l'autodromo. Ne so come prima, comunque. È la sede dell'autodromo del Mugello. Ah, cavolo. Quindi c'è la cittadina di Scarperia. È svalicato dall'altra parte. Sì, è dall'altra parte. Ho capito. Allora lo salutiamo e non so se non credo che si prenda Radio Città Fujiko al Mugello. Sì, sì, prende online. L'internet si riesce a seguirlo bene. Infatti, ho mandato anche a qualche amico molto bene riferimenti. E dunque ci leggi una sua poesia? Sì. Ti ho preso in contropiede. No, volentieri. Dai, vieni, guarda. Ah, qua. Sì. Fantastico. Io intanto sotto ti ho messo lo sfondo dei Ramones, va bene? Benissimo. Vai. Erano diversi i colori quando ero bambino. Risveglio, consapevolezza non consapevole dell'essere o non essere. Dove sei stato? Da dove vieni? E cosa importante? Dove stavi andando? Dove stai andando? Macinare chilometri per trovare sollievo è un'azione sempre più impegnativa per il corpo e per l'anima. Erano diversi colori quando ero bambino, nitidi e pieni di sorrisi e allegria. Possedere il niente nell'incoscienza dava serenità. Ossimoro metafora. Corrono veloci gli alberi dal finestrino del treno, come i giorni verso la scadenza, ho cose da fare ancora. Ezio Alessio Ginsini. Hai capito. Ma queste poesie lui le ha scritte per te? No, lui di solito queste anche poesie le fa in forma di tweet che le scrive sul cellulare. Infatti adesso sta programmando una serie di, oltre con i volumi che abbiamo fatto assieme, sulle tematiche sociali, adesso sta pubblicando una serie di libri, di due o tre libri sulle sue poesie personali che sono nate in questo periodo. È partito questo? Andava bene lo stesso? Ottimo. Sì, benissimo, okay. Anzi. No, scusa, continua, sì, sì. Pure. No, e le fa in forma di, credo, una serie di battute che ti può permettere solo il telefonino, quindi sono... Parte da questo vincolo e dopo da questo vincolo, gli dà quindi... la possibilità creativa. Bello. Paesaggi spaventosi. Ok. Sì. Questo è sempre Coxo Spaziale e noi stiamo parlando della mostra. Ma Lucia. Di sì. Lucia è interessante perché a me ho visto i suoi lavori e mi interessa moltissimo. Cosa ti interessa? L'idea di questi acquerelli. Certo, sul disastro, sul tema del disastro e queste frane. Interesserebbe sapere da Lucia un qualcosa, perché Perché il disastro, Lucia? Ma perché è divertente pensare di poter presentare le proprie creazioni che in realtà sono delle distruzioni, no? C'è questa cosa divertente. Un po' tipo i bambini, cioè, quando prima costruiscono tutto il castello con i Lego e poi spaccano tutto. Allora, no. Esatto, esattamente così. Perché è una riflessione, questo è un pezzo di una riflessione fatta per immagini, relativa ad un ciclo, che è quello del costruire, del demolire e poi del contemplare. E in mostra alla regione portiamo soltanto l'ultima riflessione, quella più recente, che è quella del demolire, però in realtà questo ciclo di pensieri è completo guardando tutti e tre questi aspetti, quindi della costruzione, della demolizione, della conservazione e della contemplazione rispetto a ciò che si conserva. Ecco, per cui ad esempio quel lavoro dedicato al Ponte Morandi, che hai già presentato in regione, rientra in questo ciclo di lavoro per demolire. Sì. Io ho conosciuto la persona che ha realizzato quella demolizione, perché è interessante, ci vuole un progetto acutissimo e preciso per demolire qualcosa. Certo, guarda le Torri Gemelle. Esatto. No, vabbè. Soprattutto se questo oggetto da demolire insiste in una città, cioè ha attorno altri edifici che non devono essere danneggiati. Quindi è un progetto che deve conservare paradossalmente il restante, non paradossalmente, cioè essere attento a ciò che esiste. Se spacca tutto quello che c'è attorno, un casino. Esatto, quindi è una sono demolizioni, si chiamano proprio demolizioni controllate proprio per questo, perché devi essere capace di controllare quello che va giù. Ma tu sei ingegnere praticamente. In che senso? No, non in senso offensivo, vero? No. Ok. Era una battuta. Ecco, ma tu li realizzi tutti all'acquarello, sì. Questi lavori? Sì, sono lavori da acquarello su carta, sì. Per cui questo tipo di tecnica ti permette di ottenere un risultato che puoi ottenere solo con l'acquarello, oppure ti rispondo da ingegnere, è un motivo logistico per la conservazione, perché sono carte sottili, non avendo uno studio enorme riesco così a conservare tutti i lavori in maniera contenuta, e in più lavoro in un seminterrato, quindi ho poca aria a disposizione, lavorare con i solventi dell'olio mi costerebbe più fatica, ma questa è una scelta ecologica poi alla fine, insomma, per me, insomma, di sopravvivenza. Non devo fare aerosol di oli e trementine, sebbene mi manchi, perché il lavoro a olio è un'altra cosa. Ah sì, tu dipingevi a olio. Dipingevo ad olio, sì. E quando hai smesso? Quando non avevi più aria. Esatto, okay. Per mancanza d'aria. Que por las noches no más se arriba en più rotola. Dice que no comía, no más se arriba en più rotoma. Juro que el cielo se estremecía lo en su llanto. Como sofría por ella, que hasta en su meta la fue. Mando. Aroma. Siete spaventosi. Questa l'ho sentita l'altro giorno in un film. E... Salve a tutti, sono Pino Boresta e sto ascoltando Coxo Spaziale. Oh, salve anche a Pino Boresta, che salutiamo caldamente. Lo conosci, Leonardo, Pino Boresta? O ti manca? perché tu conosci tutti, è spaventosa sta cosa. In effetti. No, c'è Sandro che conosce molte persone più di me. Ah sì? Perché io sono trapiantato da Firenze, mentre Sandro è proprio quasi cittadino del mondo. Ecco, forse è più giusto. Intanto è bello, per esempio, noi quando ci siamo conosciuti, tu avevi una galleria d'arte. Certo. No, vicino al cinema Rialto, diciamo, la strada, quella sì, parallela dietro al Teatro Duse, dietro ad una piccolissima galleria. Come si chiamava la tua galleria? Studio Malossini. Che è durata 5-6 anni, però con devo dire un'attività che mi ha dato molta soddisfazione. Si era creata anche molta attenzione nei confronti della galleria, anche per dei fatti fortuiti, scelte di artisti che poi sono cresciuti nel tempo, si sono imposti a livello nazionale e oltre. Penso agli artisti romani di San Lorenzo, ma anche al recupero di artisti come Vasco Bendini, che non esponeva da anni praticamente, e fece una mostra, qui mi piace anche ricordarlo, di un solo quadro. Cioè con Vasco decidemmo di fare una mostra di un quadro, perché si doveva vedere e parlare solo di quello. Mono. Poi in magazzino avevo altre opere sue e mi ricordo che venne concesso. Che anno era questo, Sandro? Direi, vado a memoria, o l'82 o l'83. Comunque ricordo che venne concetto Pozzati e per tutto il tempo ho continuato a scuotere la testa, a dire non è possibile con un solo quadro, non è possibile con un solo quadro. Ma invece altri artisti, altri critici apprezzarono questa scelta, forse un po' provocatoria, ma volutamente. Cioè dipende un po' dal quadro. Beh, era un quadro molto importante, ricordo immagino ancora il titolo, che era Tutto ali di foglie, sul quale Alessandro Borgogeni scrisse un bellissimo testo che accompagnava la mostra, diciamo, anche se era di un solo lavoro. Salutiamo anche Alessandro Borgogelli, che non ci starà ascoltando sicuramente. Beh, domani però diremo di riascoltare. Esatto. Infatti. Ma non dovevamo parlare delle vulve di Pozzati oggi? No, perché alla fine non l'avete visto la nessuno. Mostra, no, siamo nessuno, curiosi, nessuno però visto che Pozzati è venuto fuori appunto nel mio discorso. Ma invece siete andati a vedere qualche mostra di fotoindustria? Perché fotoindustria io non l'ho nemmeno annunciata, perché tanto lo sanno tutti che c'è fotoindustria, ci sono cartelloni ovunque, ma io non sono ancora riuscito ad andare a vedere nulla. Non so sì, voi. Anch'io. Okay. Anche io sì, ho visto quella alla palazzina di Le Corbusier. Ah, ok, che è già un posto meraviglioso. Infatti, e per la prima volta è possibile vedere il giardino interno, perché fantastico. Hanno avuto le chiavi e sono molto carine le persone che sono lì, perché è una delle prime cose che ti fanno vedere. Che bello. Proprio perché si sa che è sempre chiuso. Infatti è stata una bellissima sorpresa. Con questo albero che buca. Esatto, che buca il vederlo dall'altra bellissimo. Parte è molto interessante. Certo. Sì. Cioè le foto fanno schifo, ma, no. Ma l'albero è meraviglioso. No, infatti. Adesso magari andiamo anche a vedere il sito di Fotoindustria. Sì, è un autore giapponese, mi sfugge il nome, ma è interessante perché lui ha esposto per la prima volta, in occasione di questa mostra, anche della pittura. Ah, vedi. Che fa riferimento poi a questo doppio ciclo, sono due tracce che lui segue. Una racconta l'urbanità dei McDonald's, che sembrano gli stessi dappertutto, poi in realtà una foto è scattata in Francia, un'altra in Giappone. E l'altra traccia invece è questo abbattimento annuale dei cervi che avviene in Giappone perché sono cresciuti troppo di numero. Stiamo parlando di Takashi Homma, M Plus Trails si chiama la mostra. Esatto. Sì. No, che in effetti questi luoghi tipo no, i franchising degli aeroporti, anche l'IKEA stessa, no? Sì. Cioè, sono posti che veramente sono abbastanza surreali proprio nel fatto che tu magari ti trovi a Yokohama, entri in un IKEA ed è esattamente uguale, come quella di Casalecchio, certo. Di Reno, cioè esatto. Non c'è assolutamente nessuna differenza. Sì, e dà un senso di conforto, dicevano le persone che sono state lì alla mostra, mi raccontava moltissimo questa guida fantastica, non mi ricordo il nome, una ragazza è stata spettacolare nella sua cortesia, e mi raccontava appunto che le persone quando vedono le immagini dei dei McDonald's, sono convinta di esserci state. E lei fa notare, però, insomma, per un attimo fuori mano. No, sicuro, questo qui l'ho visto. E quindi anche quella diventa una forma di collezione, se uno ci pensa, no? Ah, certo. Collezionare i posti che sono simili ma diversi perché collocati diversamente. A proposito di McDonald's, devo mettere le pubblicità delle 7:30. Ah, beh, allora. Vi taccio in questo modo. Dai una marcia in più alla tua azienda. Liberi di muoversi. Hey John, Picasso Gaglione here in Knoxville, Tennessee. Give me a call whenever. Take care. Bye. Cox spaziale. Da bravi vecchi stavamo dicendo che una volta non era così. E dunque una volta si studiava di più l'arte, no? Soprattutto l'arte successa da poco, no? Negli anni 90, magari gli anni 70 si tenevano, certo, più in considerazione che non magari negli anni 20 del 2000. Ma guarda, gli anni io 90. Ricordo gli anni 70, per me sono stati gli anni della formazione, e la mia formazione cos'è venuta? È venuta con l'arte degli anni 50 e 60, certo, con lo studio, la conoscenza di quella che era già un'arte superata, perché negli anni 70 c'erano già le avanguardie, c'era già, iniziava appunto, c'era già l'arte povera, però c'erano già gli ambienti, c'erano le prime performance, cioè c'era la trasformazione di quello che era tutta l'arte contemporanea. Questo però avveniva con una conoscenza di quello che c'era stato prima, perché anche le performance, possiamo dire, con il futurismo c'erano, certo, già state, capito? Però veniva fatto tutto sapendo quello che c'era già stato. Mi sembra che invece adesso, purtroppo, molti giovani, molta arte giovane, ripete delle cose che le avanguardie degli anni 70, ma anche degli anni 80, hanno già proposto. E vengono invece proposte come cose assolutamente nuove. E questo non è vero, in realtà. Io non sono d'accordo, nel senso che io credo che sia proprio scaduta l'idea di innovazione, cioè, ovvero loro sono, sì, coscienti del fatto che è impossibile innovare adesso, e, certo, dunque fanno un po' quel cazzo che gli pare. Ah, interessante. Sì, però io ti dico, vedo delle cose che ho già visto, noi siamo vecchi persona dentro come mentalità, certo, cioè noi abbiamo sempre l'idea di questa arte contemporanea che deve costantemente innovare, è un po' come il PIL, no? Il PIL deve crescere, ma in realtà sappiamo che non è possibile, così come non è possibile continuare ad inventare modalità nuove di fare arte, no? Certo, però per cui ritorna alla c'è pittura, un problema di qualità poi che ripaga di me, sempre, certo. E di Leonardo ha completamente senso, eh? No? Vi ho ucciso. Ci hai azzittito, così come devo fare, perché adesso è l'ora del... L'angolo della menzione. Che oggi è un angolo un po' strano, perché parlo di una mostra che ha inaugurato sabato, e siccome non l'avevo menzionata perché mi è arrivato troppo tardi il comunicato, la Otto Gallery ha inaugurato sabato una mostra collettiva dal titolo Tetraedro, a cura di Alberto Zanchetta. Qualcuno di voi c'è stato? Vedi? Fantastico. Infatti devo dire che questa cosa, che non si ha più il tempo di andare a vedere le mostre altrui, è un disastro. Suddivise in base a tematiche e discipline artistiche, la mostra intende connotare le sale della galleria in base a riferimenti storico-culturali che si focalizzano su analogie, comparazioni e salti cronologici. Non si tratta quindi di un'unica mostra, ma di una triplice esposizione basata sul concetto della frammentazione e della diversità. La modalità condivisa in ogni sala è quella del montaggio, vale a dire scegliere e mettere insieme le opere, ossia gli strumenti dell'ingegno per creare un insieme indivisibile che possa effettivamente definire il proprio contesto espositivo. Nella prima sala viene ricreata una Wunderkammer, mentre nella seconda sala è ispirata al cabinet d'amateur, e la terza sala rievoca invece l'ambiente dello studiolo. Gli artisti sono Gabriele Arruzzo, Jacopo Casadei, Umberto Chiodi, Lorenzo Conforti, Barbara De Ponti, Andrea Luzzi, Fabio Marullo, Beatrice Meoni, Nero, Alessandro Neretti, Vera Portatadino, Andrea Salvatori e Studio Nucleo. Ed è su fino al 10 gennaio, questo alla 8 Gallery in via d'Avveglio 55. E anzi, ne approfitto per salutare Alberto Zanchetta, che era un sacco di tempo che non curava una mostra a Bologna, perché una volta invece lui, certo, curava le mostre qui, e poi non ci sono andato all'inaugurazione, per cui non l'ho potuto salutare di persona. E invece dal 29 ottobre, che cos'è, giovedì prossimo, a Palazzo Bergati in via Saragozza 28, venerdì. Abbiamo Giovanni Boldini, lo sguardo nell'anima, in occasione del 90° anniversario della sua morte, avvenuta a Parigi nel 1931, Palazzo Albergati di Bologna ospita una straordinaria mostra dedicata a Giovanni Boldini, con oltre 90 magnifiche opere, dal 29 ottobre al 13 marzo 2022. Anche qui abbiamo abbastanza tempo per andarla a vedere. Ad esempio, prima parlavamo, no, di Alessandra Borbogelli, e lei è stata compagna di Boldini. No, a parte che ha anticipato tanti artisti contemporanei, però lei ha scritto molti libri e saggi su Boldrini. Era una delle più importanti Boldini, una delle più importanti boldiniste della zona, insomma. La mostra è curata da Tiziano Panconi e sviluppata su, vedo che fate gesti, anch'io non lo conosco, sviluppata su un registro narrativo, cronologico e tematico al tempo stesso, e presenta una ricca selezione di opere, come abbiamo appena detto, che esprime al meglio la maniera di Boldini. Il biglietto è 16 euro con l'audio guida inclusa, e trovate tutto naturalmente su www.coxospaziale.blogspot.com da domani, per cui sapete anche come arrivare a Palazzo Albergati. E sabato invece abbiamo appunto il vostro finissage dalle 10 alle 12, finissage di entrambe le mostre, anche quella, certo, di Andrea Raccagni, che come sapete abbiamo parlato anche di questa, perfetto, in una delle e anzi io vi invito tutti, quella di Santoli magari anche no, però invece quella di Raccagni assolutamente non potete perderla, perché è molto molto anche interessante, anche perché si vede, salendo Raccagni si vede, si intravedono i quadri, quindi anche quadri, se uno va di quadri di Santoli, i quadri di Santoli, esatto, super Santoli. E dunque questo naturalmente è all'Assemblea dell'Emilia, legislativa dell'Emilia Romagna, che è in come si chiama, Viale Aldo Moro 50. Cioè c'è anche scritto, non ho l'indirizzo, fantastico, nei miei appunti, però c'è scritto che potete prendere l'autobus 28, 35 e 39 per andarci, per cui se siete in autobus sapete come anche la bicicletta. E sabato comunque il parcheggio antistante l'Assemblea Legislativa è libero, vedi, per cui si può raggiungere, gratuito, si può raggiungere tranquillamente anche in automobile. Poi c'è il catalogo. Presentato il catalogo di Leonardo Santoli, e che assieme a quello di Andrea Raccagni vengono dati gratuitamente a chi si presenterà. Sì, no, in effetti questo potrebbe, in realtà forse gli studenti dell'Accademia di Belle Arti non sanno questa cosa, che, certo, comunque all'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna non solo possono imparare un po' di tecnica del proprio maestro, no, e anche di maestri passati, ma anche possono anche portare a casa un sacco di cataloghi gratuiti per poi appunto studiare il loro prof. Non ho capito che cosa ti ha fatto arrabbiare di questa mia. No, perché non dovevo dire che sei un prof dell'Accademia. No, anzi, siamo stati colleghi 2 anni su a Torino, quindi ci conosciamo bene, anzi, grazie anche a questa esperienza. Prego. C'è stato un momento di silenzio. Non sapevo dove volevo andare. Esatto, non sapevo bene come dovevo rispondere. Grazie anche a questa conoscenza, no? Esperienza. Poi no, se vogliamo parlare, no? Sono rimasto anche favorevolmente colpito. Siamo andati con Sandra a vedere la tua mostra. Che ha no, ma non devi parlare oggi della mia mostra, sei pazzo. Dopo casa Morandi, sei riuscito a far rivivere un luogo che dico, insomma, non voglio dire altro per non polemizzare. No, infatti metto una canzone per fermarti, perché altrimenti il direttore di questa radio mi sgrida, perché non possiamo parlare di noi stessi. Insomma. Bellissima la canzone di Stefano. Erano le LAX's con I Got Half a Mind. Naturalmente non si può dire niente con voi, è pericolosissimo parlare di altre cose. Attenzione che Santoli si è messo a disegnare, per cui vedi, l'hai bloccato sulle discussioni. Sarebbe da fare un live su Instagram per che cosa stai facendo, Leonardo? Una rosa di vetro, poi se anche Lucia fa una cosa che ti lasciamo a Coxo. No. Ah, grande. Ma grande. Eh sì, perché di solito io c'ho Chiara Pergola che si sente proprio che disegna incessantemente. Chiara, naturalmente la salutiamo. E ci manca enormemente, ma Io speravo di trovarla qui stasera, infatti, ma mi ha detto la bella notizia che ha avuto. Esatto. Questo insegnamento all'Accademia di Belle Arti di Macerata. Esatto. Dai, bene, per cui bene. Questa cosa ce la impegnerà per un po' e rimarremo senza di lei per un po', poi, perché poi io nel frattempo sto ancora aspettando Fedra, che era la mia co-conduttrice originale ed ufficiale, con cui per 7 anni abbiamo fatto Coxo Spaziale. Ah, invece Lucia prende la matita mentre Leonardo ha lasciato la penna e Lucia invece è partito con... Dopo, naturalmente, Sandro, ti tocca di disegnare anche te in tutto questo. Vedremo. Tu hai studiato, hai fatto il liceo artistico? No, assolutamente. No. Cos'hai studiato da giovanotto? Io ho fatto lettere per 3 anni, poi, non essendo un bravo studente, sono passato al DAMS. Ah, ecco. Però ribadendo il concetto che non sono un bravo studente, mi sono fermato a 2 esami dalla tesi. Ah, grande. Non hai neanche pensato che tesi avresti voluto fare, oppure sì, ci stavi già pensando? Sì, ci stavo pensando, ma non ero molto, molto convinto. Ho capito. Ma prima di fare lettere, che scuola avevi fatto? Io ho fatto agraria. Ho fatto, no, ho fatto il liceo artistico per 15 giorni. Ah, vedi che ha fatto la 15 giorni no, a Verona, poi a Verona. Diventavo un problema perché a Bologna non mi avevano preso. Quell'anno c'era il numero chiuso e io non avevo una votazione tale per poter accedere, per cui mi iscrissi a Verona pensando che da Riva del Garda, dove io potevo stare da mia nonna, potevo fare avanti e indietro tutti i giorni Riva del Garda Verona. Ah, cavolo. Ma quando ho visto che ci voleva quasi 2 ore la mattina, 2 ore a rientrare, e 15 giorni sono durati i miei studi artistici. Dopodiché ho fatto una scuola, un istituto tecnico per geometri. Come volevano i tuoi genitori, ma fondo, i miei genitori neanche tanto. Fu mio zio che disse: vabbè, liceo artistico si disegna, anche in una scuola per geometri si disegna, per cui c'è poca differenza. Infatti, cioè, tra disegnare e fare una sonometria cavaliera e un nudo è praticamente è la stessa cosa, infatti. Ho capito. E tu invece, Leonardo, che cosa hai studiato da giovane? Hai fatto l'artistico? No, ho fatto l'Istituto d'Arte Sesto Fiorentino, che era l'ex scuola di Richard Ginori. Dove ha studiato Michelangelo? No, lì era una parte più... Cioè, Richard Ginori, cioè quello tutto blu che rompe i coglioni su... Ah, ma tu hai capito chi è? Ma non eri tu di nascosto? No, non sono io di nascosto. Ah, io c'è questo Ginori su Facebook. Che... Esatto, che non si capisce chi è. Anzi, era il suo compleanno. Non so salutiamolo, tanti auguri, sì, è vero. Io nel frattempo, non so se lo sapete, vi volevo informare che non ho ricevuto alcuna richiesta di farmi da co-conduttrice a Coxo Spaziale al numero verde 333 180. Forse dovresti mettere una tua fotografia. Ma no, anzi, probabilmente è proprio perché hanno visto la mia fotografia su Instagram. Però vedrai che adesso mando un po' la notizia, vedrai che spargi un po' la voce, che vediamo cosa succede. Ma basta dare dei crediti, io penso che qualche studente posso infatti venire. Tu Leonardo ci scherzi, ma io posso dare dei crediti, cioè io sono nella lista dell'Accademia di Belle Arti. Perfetto, faccio girare la notizia. Vabbè, allora io mi faccio indietro perché questo potrebbe essere utile. Fatti pure avanti perché adesso lunedì prossimo non ci sei perché sei impegnato, ma il lunedì dopo non potrai mancare, anzi devi anche trovarmi gli ospiti, per cui Okay. E li devi pagare. Esatto. Sì, no, devi solo, no, come al solito, gli offri la cena, come hai fatto. Ah, ecco. Vabbè, allora una sciocchezza. Come mai fatti, dai. Come non faccio io, naturalmente. Ah, ecco, finalmente ci si sposa. questa canzone la dedichiamo a Giuseppe Leonardi che ci sta ascoltando. Sì, però è però... una cosa strana perché lui sta dicendo: ribadisco, gli stacchi fanno cagare. Cioè, come mai ha questa cosa, Pippi? Com'è? Ma perché perché tu sei a Torino, perché lui sei invidioso, è un vecchio punk, ha bisogno di cose più. Adesso vado, aspetta, forse c'ho degli stacchi Pippi che gli potrebbero piacere di più. Tipo questo. Questo l'ha fatto Fedra. Santi Numi. Che na. Va meglio questo? Cosa dici? Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo speriamo. Sa? Senti, ma invece siamo riusciti a ricevere la poesia. Hai tentato di fare questa cosa perché ci sta allora arrivando una poesia, però non arriva, per cui è un po' come il 21 quando lo aspetti in stazione. Allora dovrebbe aver ricevuto il numero, spero che ti giri l'audio. Non lo fai tu? Non ce l'ho io, non me la mandi. Ah, non te la mandi? Ah, ok, allora 333 180 94. Manda l'audio qui e forse ce la facciamo. Lo puoi fare sia con WhatsApp che con Telegram che con i messaggi. Un audio non si può fare, per cui sì, cioè, purché non sia 18 minuti di poesia. Ridiamo di nuovo il numero 333 18 09 494. Grazie. Che bella voce e che bella vista. Una signorina, buonasera. È lei. Buonasera. Buonasera. Ho capito. Cos'altro ci dobbiamo dire oggi, Leonardo? No, era bello interessante questo discorso che faceva Sandro sugli anni 80 e la sua galleria, no? Poi durata 5 anni. Però tu nei racconti che mi hai fatto hai detto che per anni e anni hai lavorato anche in banca, e quindi com'è, certo, questo passaggio? Ho lavorato anche in banca. Tra la banca e la galleria. E poi sei stato anche imprenditore, no? Sì, diciamo che sono stato molto irrequieto negli anni. Ho sempre continuato a occuparmi di arte contemporanea, organizzando delle mostre in Italia, ma anche all'estero. Ho avuto un'esperienza negli Stati Uniti che è durata prima un periodo di 6 mesi, poi di altri 3 mesi. A St. Louis, dove ho organizzato alcune mostre di artisti italiani, ma nel frattempo per sopravvivere, avevo famiglia con dei figli, ho lavorato in banca, mi sono stancato dopo 4-5 anni di lavorare in banca, ho fatto l'imprenditore arrivando fino ad avere 40 dipendenti, poi mi sono stancato anche di quello. E ho cercato sempre comunque di finalizzare tutto il mio tempo, la mia voglia di lavorare verso il mondo dell'arte, che è quello che mi appartiene fin da ragazzino, perché io il mio primo lavoro come collezionista l'ho comprato a 14 anni con la paghetta che mi davano i miei genitori e pagavo settimanalmente la persona che mi aveva venduto questo lavoro. E ricordo, poi chiudo con i ricordi, che andavo a vedere le prime mostre nelle gallerie bolognese che avevo ancora i pantaloni corti perché avevo 13-14 anni, con diciamo un imbarazzo totale, fino a quando poi alcuni galleristi mi avevano preso in simpatia perché forse ero l'unico ragazzino che andava a vedere delle mostre da solo e mi davano i cataloghi, che per me era un regalo enorme in quegli anni lì. Tornavo a casa, li studiavo, li leggevo, ho consumato dei cataloghi in una maniera incredibile a forza di guardarli e riguardarli. Che bella sta cosa. Meraviglioso, sì. Infatti, no, devo dire che conosco poche persone così appassionate. Io mi ricordo a 14 anni in prima liceo artistico che andavo alla GAM ed ero da solo per questi saloni enormi. Sì, era abbastanza interessante. Ho visto per esempio nel 1984, 14 anni, ho visto la mostra, quella organizzata dalla Linovi sui graffitisti. Com'è che si chiamava? Non mi ricordo più neanch'io. Sì. Comunque a proposito, poi vorrei chiudere, ma a proposito di ricordi di quell'età lì, io non era radiofrequenze, erano quattro critici. Ultima frontiera. Ultima frontiera. No, l'aveva organizzata da Olio con Francesca Regnoli. Poi c'erano altri due, forse Ceritelli. Forse no, non c'era Claudio Ceritelli, no, non era assolutamente quello. No, non era quella lì. era registrazione di frequenza, di frequenza, invece questa, sì, identità, sì, questa è diversa, quella di comunque sempre in quel periodo lì, all'età di 13-14 anni, forse ho compiuto i 13 anni, andavo per i 14, ho questo ricordo di Pamela Picasso, la figlia di Pablo Picasso, che esponeva a Riva del Garda d'estate, e io andai all'inaugurazione di questa mostra e lei mi offrì il mio primo bicchiere di frisantino, perché non avevo mai bevuto un frisantino, però lei, che accoglieva gli ospiti a visitare la sua mostra, mi offrì questo primo bicchiere, e mi è rimasto impresso, perché da allora io tutte le volte che entro in una galleria e ho qualcuno che mi offre un frisantino, mi ricordo questa bellissima donna, sì, ragazza, adesso non ricordo quanti, molto più grande di me ovviamente, che mi offrì questo bicchiere di frisantino. Direi che il tuo ingresso nel mondo dell'arte è stato benedetto da un frisantino offerto da Paloma Picasso. Stiamo dicendo niente. Io vi ringrazio tantissimo, il nostro tempo ahimè è finito, per cui ringraziamo Leonardo Santoli. Mi raccomando, andate a vedere la sua mostra all'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, che è super per tutta la settimana. Ringraziamo Lucia Lamberti, che invece vedrete con calma, riascolterete, esatto, e naturalmente ringraziamo Sandro Malossini, che ci delizia con queste fantastiche storie di arte contemporanea. Grazie a te Stefano, era Coxo Spaziale, noi ci sentiamo naturalmente lunedì prossimo, sempre dalle 19 alle 20, e adesso vi lascio con le parole del nostro simpatico. Devi dire qualcos'altro? Devo dire buonasera. Buonasera, perfetto. No, io invece vi lascio con le solite parole del nostro direttore, che dice così. Oggi non lo dice. Eccolo qua, arriva. Eccolo. Con questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Yeah! They're calling me the Islander. If I want to, I want to come from pretty little Islander. Coconut trees, body white sand, calling me the Islander. Killing with the natural sun, turn pretty little Islander. Pretty little Islander. I jam here, tell me born in England, me grow up. Me step up at the plane, know me a star at the show. Winning for me mind before me turn embryo. Me a tad and dip on the pepper, but me cola than snow. And me pick up them face and then lip on when me eena. Them boyfriend know say this a grass greener. Me don't chase, me no follow me a leader. Me wine waste in a mesh marina. When me walk, I'm clean with the lean. Never meant to make trouble, never want to make a scene. Pull the energy like a minium caffeine. Uh-huh. And my steel snap me a Caribbean cuisine. Yeah, yeah. Sweatpants in a cracker in a sneaker. Spanish man, him say, El Musa Senorita. A little weight for me body and be sweeter. Still wine waste in a mesh marina. Ha, ha, ha.